Allora, Ed ciao, eccoci, bentrovati o bentrovate, torniamo come di nuovo in sempre. Se ci voce state e ascoltando, vuol commentiamo dire che quello che è siete accaduto. nello Avete spazio sentito, radiofonico su spero Radio con un Wombat certo della stampa entusiasmo anche da parte rassegnata, vostra, le voci trasmissione che di questa arriva piazza, da con Piazza della questo Signoria, pillolo che alla sua nella serata di ventesima venerdì puntata, 25 cominciata di all'inizio del maggio, serata che in 2018, qualche modo verrà per fare un po' ricordata a il punto della lungo situazione sulle due lotte per gli popolari, abitanti della quella contro Piana e di l'inceneritore di Firenze, che in case questi clusterine di anni si sono Firenze opposti e quella in tante contro forme e l'aeroporto a di ondate Veretola, che differenti, vorrebbero con trasformare in un tempistiche aeroporto diverse, con modalità intercontinentale, diverse, ma cementificando un bel comunque pezzo della piana ondate fiorentina. da In parte questa degli trasmissione, stessi, per chi ci ascolta diciamo, già lo sa, chi avversari non lo che sa e si propongono da trovasse anni la in costruzione di ascolto per la un prima volta, inceneritore nel adesso lo sa territorio perché lo fiorentino e dico. nella Piana. Facciamo Quindi una anche un giornata po' che di verrà riflessioni ricordata e e diamo uno sguardo diciamo alla cronaca l'aspetto locale così emotivo, a per quelle che caldo di sono quella notizie che ci serata, di quel sembrano rilevanti festeggiamento, da un punto l'avete di appunto un vista po' ascoltato, vi appunto siete della fatti, cronaca locale, spero, per ciò che un'idea anche accade sui nostri attraverso territori. questo, tra Particolare virgolette, come l'ho definito, attenzione, ripeto, esperimento alle di questioni legate giornalismo così direttamente o indirettamente militante, fatto in all'inceneritore e modo molto all'aeroporto, domestico e ma molto anche semplice, tutto ciò microfonino che alla ci mano sembra e tanta curioso, voglia di interessante pedalare, o di degno di nota, condividere a partire emozioni dal e punto di vista di argomenti me, che come con tutti, con speaker tutti e tutte i protagonisti di diciamo, e questa cervello di lunga lotta. questa Lunga lotta che trasmissione, appunto per guardo andare i giornali e su lasciare lo quelli mi spazio confronto. e passare Chi non lo dall' sapesse, ottimismo della da volontà poco a quello che a tempo, volte viene definito forse come qualcuno si era pessimismo abituato della ragione, alla e andare a replica delle cercare degli argomenti più trasmissioni razionali, tutti i andiamo giorni immediatamente a feriali guardare nel quello palinsesto che è di Radio il Wombat, day invece da alcune after, cioè il settimane, giorno per fare dopo, spazio ad che è altre il trasmissioni. sabato Quindi 26 di tiriamo maggio, che volentieri nella la cinghia cronaca locale sui è un passaggi di questa giorno stampa appunto rassegnata nel importante. palinsesto di Radio Wombat. Ovviamente Ci si siamo, susseguono gli diciamo, abbiamo, interventi sì, della controparte che tirato la continua cinghia, a quindi ridotto il numero smusettare di quello che è passaggi. successo. Andiamo in diretta E il lunedì apriamo, alle e ora faremo insieme 15:30 questa e lunga invece in carrellata replica di il titoli mercoledì per guardare alla insomma quello che è mezzanotte, la reazione. orario Dal interessante Corriere per chi, Fiorentino, il diciamo, primo se che lo può guardiamo, permettere, diciamo così, termovalorizzatore, i oppure il costi giovedì dello mattina stop, presto alle il rischio è 8:30. che Quindi finiscano in diversificando bolletta. anche un po' le Il fasce di precedente di Selva ascolto, Piana, la regione puntiamo, scrive al speriamo, ci lato auguriamo che che possa risponde, non c'è crescere, emergenza aumentare anche rifiuti. la Questo è il possibilità da titolo e parte vostra di sottotitolo del Corriere, ascoltarci, poi c'è la appunto in Repubblica, momenti diversi l'inceneritore, un e fallimento orari della diversi della politica. giornata. Dietro lo stop Fatti i all'impianto, saluti di scontro tra rito, Rossi e forse mi sto solo Firenze. dimenticando di Il governatore ricordarvi accusa che Palazzo Vecchio se di essere avete la indietro con la possibilità, la differenziata. voglia, la Altre curiosità, città sono l'interesse, vi trovate non all'80%. troppo Entro il lontano dal 2020 sarà nostro la soglia, ripetitore. d'obbligo. Se avete Questa è la la voglia Repubblica. di, Di nuovo il Corriere appunto, di sul blog a ascoltarci 5 non Stelle de medie, e ci trovate Grillo alla modulazione celebra di la frequenza sconfitta del di Renzi. Adesso si 1359 e se scusa. no, digitando Abbiamo ancora il tranquillamente Radio Corriere, una Wombat spalletta, i comuni del no. su un Sesto è qualsiasi pronto a motore di restituire ricerca, soldi, ma arrivate solo un al po'. sito Abbiamo nel poi quale ancora il trovate sia Corriere, la il possibilità dibattito di sul ascoltarci in termovalorizzatore, il streaming, cioè no in a Casa diretta Passerini, può attraverso la mandare rete, in tilt oppure di il sistema scaricare i dei podcast rifiuti. anche di puntate e Le voci trasmissioni vecchie che, appunto da nonostante Repubblica, con una delle tra classiche virgolette, la infografiche dove vecchiezza si vede del cronologica, la poi faccia del possono politico di anche turno, affrontare le temi o dichiarazioni da sviluppare Enrico riflessioni Rossi, a che vi Emilio Giannotti, interessano o che all'assessoressa volete riascoltare o fiorentina segnalare a Alessia qualcuno, Bettini. perché Poi appunto i abbiamo temi il sono di sensazionalismo sempre in della qualche Nazione, modo che di non una si è certa smentita neanche rilevanza su per voi. questa vertenza, su questa Fatto appunto situazione, veramente le i grandi flussi di opere, saluti rituali montagne di dell'apertura rifiuti della trasmissione, in che ci servono un'infografica anche a che noi mescola speaker per la rompere un foto po' di il ghiaccio di con il un microfono, capannone dove andiamo vengono davvero a guardare le smistati i notizie rifiuti, di questa con poi settimana. Notizie di informazioni su questa quello che è settimana lato che Toscana Centro, lato ovviamente, Toscana appunto Sud proprio e per lato diciamo, la Costa, caratteristica, appunto montagne per la di tara rifiuti e poi genetica della nostra inceneritore trasmissione addio, che ma ci guarda alle costerà vicende caro. dell'inceneritore, non Adesso possiamo 210.000 non tonnellate di rifiuti dare un ampio indifferenziati spazio dovranno essere alla smaltite nel sentenza nord Italia. del Consiglio di Stato che Repubblica è ancora, uscita questa penali e settimana, bollette più care, l'addio all'inceneritore non dando sarà a poi il costo via a zero. una serie di Questi sono più o meno i interventi titoli. di tipo Abbiamo ancora una mediatico e nazione, il fronte giornalistico del no è in affidati alla festa, politica è la vittoria delle fiorentina e periferie, tra regionale e della virgolette, Piana, le e reazioni dall'altra dalle parte mamme ai anche in qualche sindaci modo uno contro. spazio che i movimenti, Questi più o comitati, meno sono i associazioni titoli e di tutto cronaca che ho cercato di quella galassia e quel raccogliere, non complesso di saranno abitanti sicuramente tutti, teniamo autoorganizzati che in conto che questi c'è anni hanno anche sviluppato questa battaglia, c'è si sono stata una presi forte radunandosi in esposizione anche dal piazza punto di vista della Signoria televisivo venerdì delle cronache sera locali e anche non anche e indifferente il soprattutto per lavoro e il festeggiare questa lavorio vittoria continuo che è dei arrivata in social qualche media, modo da attraverso i intendersi tribunali e che come quindi social media non è una il vittoria da tentativo che sopravvalutare, è però fatto di nello stesso utilizzo dal tempo è un basso in momento qualche modo molto importante e antagonista da molto parte di significativo che è movimenti, stato per comitati l'appunto e abitanti festeggiato anche con autorganizzati, questo e quello che viene fatto poi happening dai serale sindaci, dalle forze di politiche, venerdì 25 maggio in piazza della Signoria. Ma prima di andare a sviscerare queste cose, di farvi ascoltare anche qualche voce presa in diretta in quel momento di festeggiamento, quindi in qualche modo anche di Twitter, di video, dare spazio a un esperimento di giornalismo, se così lo possiamo chiamare, militante, che in modo molto domestico, quindi in sostanza direi alla portata una vittoria di tutti, per la verità, diffusione degli strumenti di registrazione in qualche modo audio e video è una vittoria abbastanza siamo debole, andati nel senso che a festeggiare anche noi come parte in causa e componenti che sostanzialmente ha riconfermato quella che era stata parte del la movimento sentenza e ci siamo portati che aveva dato la sospensiva il 22 di novembre del 2016 e che svolgendo la trasmissione e per registrare le voci aveva preso in esame e ve le faccio sentire, ma prima di appunto passare a svelare tutta questa forma, lunga cioè ci sono serie di fatti e vicissitudini legate all'inceneritore di Firenze, progetto, una così presentata una, da Cuttermo per la costruzione un inizio di trasmissione che con invece la ovviamente erano un'altra puntualmente sto parlando del Tiglio che è caduto regionale sul Garno del Tempio ovviamente a Firenze e che è caduto su un bus Gran Turismo insomma facendo tutto il complesso di forze danno, politico-sociale, soprattutto insomma, rischiando di cittadini auto-organizzati in comitati di lasciare sul campo ma di questi punti che erano stati portati morto attenzione del TAR dei feriti, il TAR ha preso ce ne sono in considerazione solo gli elementi sono feriti forse più deboli in qualche modo lievi meno cosa che è chiaramente della si va a inserire all'interno di quel lungo che avrebbe dovuto precedere chiamiamola polemica ma forse in modo più rispettoso argomento che si sta dando sulla città di Firenze legata appunto alla gestione del verde guidato la notizia della, diciamo la recupero è stato quello che per è stato quanto riguarda il suo aspetto diciamo, così informativo e giornalistico dalla Repubblica dal TAR che titola Firenze 2016, albero cade sul bus di turisti la sospensiva procura apre un'inchiesta era durata sequestrato fino il Tiglio e il pullman e è stato riconfermato l'argomento utile e vincente da parte in sé per sé che però appunto è presso data cioè quindi una è caduto non e ha molto messo in discussione la pratica dell'incenerimento non riconosce le portare all'attenzione dei nostri ascoltatori piana, sono non mette in riflessione mostra e le, altre diciamo la presa di parole progetto, di posizione esempio, fatta da tutto quell'insieme di forze di comitati degli abitanti e dei cittadini di associazioni e di abbiamo già consegnato sì, organizzazione ambientalista e in qualche modo anche ripescarli per continue anticapitaliste che ma in questi mesi insomma, la ha dato e continua a dare battaglie e filo da torcere all'amministrazione comunale e al piano abbastanza debole di abbattimento che permette ovviamente diciamo, agli avversari entra molto nel merito della vicenda proprio perché a seguito di questo episodio della caduta del Tiglio che è uno dei tanti alberi del cimento diciamo di quantomeno dall'inizio dell'anno 2018 ci sono state tutta una serie di non cadute particolarmente abbastanza impressionanti anche per le dimensioni degli alberi che sono venuti giù Viale Morgagni, zona semplicemente di Campo di Marte, solo per ricordarne alcuni, la formalità e del chiaramente intorno a questo, intorno a questo episodio specifico del Tiglio, ha ripreso so, nuovamente corpo e campo l'ipotesi dell'amministrazione comunale fiorentina di procedere in modo diretto e sparato con l'abbattimento degli alberi, facendo con questo, dal loro punto di vista, un opera di sicurezza urbana, di messa in sicurezza imprescindibile per le nostre città. Chiaramente intorno a questo si, diciamo, si apre non solo un capitolo legato ai dubbi, che direi che ovviamente ognuno di voi che ascolta capisce quanto questi dubbi siano legittimi da parte degli abitanti di Firenze ma, sulla insomma, cura è un scenario del verde. Improbabile, cioè, ma c'è davvero questa cura o questa cura è possibile, plausibile, c'è diciamo, la possibilità sbandierata che, e ogni volta che se ne parla detto, posta in modo acritico e dogmatico da parte dell'amministrazione fiorentina come se non potesse non esserci e invece poi magari andando nel merito degli alberi con particolare albero per albero, zona per zona ci sarebbe poi da vedere quanto questa ad oggi, manutenzione del verde viene fatta come funzionanti ed esistenti, e poi si entra anche nella nostra, diciamo, allargando la riflessione, perché chiaramente Baciacavallo, certi aspetti potremmo considerare il sintomo di segnali e contraddizioni molto più ampie, a parlare sia dell'uso della città, quindi di Baciacavallo Prato, e possibilità o meno di piantare degli alberi in base anche a quelli che sono l'uso e l'utilizzo allargare della città, o aumentare la loro capacità combustiva, in assenza ne potremmo procedere invece per quanto riguarda ad oggi l'instabilità climatica, un po' la che situazione. Piano piano è sempre più questi argomenti anche che, nei nostri territori sono stati citati, comunque due note impugnati con particolare forza del comunicato che è stato emesso, quello del tutta quella serie di forze delle che si sta battendo contro, ci sono, diciamo, l'amministrazione comunale che, fiorentina in tema di piano di abbattimento in opposizione malati alla costruzione e di degli impianti di case Passerini per più in generale di contro più tutti gli impianti di incenerimento, un impatto abbiamo tentato minore di chiarire e portare all'attenzione di tutti, un costo di e vorrei rifarlo attuali, in questo momento proprio volari. Perché forse comunque lo vado a leggere momento, per diciamo, la vostra curiosità, perché credo che legata sia giusto anche dare spazio a queste istanze del territorio che non hanno copertura mediatica e è in qualche modo anche una mission questo impianto della nostra radio. E molti degli il vero problema sono se gli alberi cadono non è far fuori gli alberi fiorentini con un intervento di abbattimento seriale, ma programmare un vero piano del verde che preveda, oltre agli abbattimenti che a volte come dicevo, sono dell'aumento la del cura, costo ovvero delle manutenzione e accudimento di queste creature arboree che fanno un muro contro l'inquinamento umano, dall'aria ai rumori, oltre a creare veri e propri ecosistemi attorno a sé, tanto più che gli abbattimenti seriali, se risolvono il problema, lo fanno a breve termine, non rimuovendo le cause per cui gli alberi cadono, ma limitandosi agli effetti. Così, più ci preoccupa che l'assessore all'ambiente, già in emergenza, come se si fosse spento un impianto, abbia confermato la bontà del piano di sostituzione delle alberature avviato nelle passate estate. Insomma, attenzione a non pianificare, diciamo, se mai sia mai stato pianificato il verde il in questa città, della ricorrendo alla paura, notizia anche è se illegittima. Comunque, non bisogna rischiare di fare un passo indietro news, di anni, come ha ribadito il professor Mancuso nel suo intervento fuori, sulla stampa diamo cittadina. Qualche modo il problema, ribadisco dal coordinamento, è che gli alberi non cadono per caso della e l'abbattimento indiscriminato della a calendario un comunicato che l'amministrazione non propone può evitare i danni a terzi per incidenti solo nel breve periodo, ma non agisce argomenti sulle cause sul lungo periodo. Le cause si risolvono con la manutenzione, il buon impianto, le giuste potature, il monitoraggio periodico, il controllo delle ditte, aspetti che l'amministrazione elude, programmando tagli che non sempre sono necessari e talora risultano sbagliati. Il rischio zero non esiste. Tornando sulla questione del Consiglio del Lungarno e del Tempio, ci si accorge che le cause della caduta possono essere molto più complesse di quanto ci si possa immaginare a primo acchito. Se si scoprisse che la caduta del Tibio sul Lungarno è stata causata dai lavori per i mondiali del ciclismo del 2013, per il rifacimento dell'asfalto, come è intuibile immaginare e come testimoniano dai cittadini residenti, si capisce che un approccio gestionale basato sull'abbattimento preventivo è fuori luogo, oltre che causa di altri danni ambientali dovuti all'eliminazione di quei benefici ecologici sempre più necessari in un ambiente urbano inquinato e per i quali l'amministrazione è presieduto dal ministro Galletti, e dunque bolognese, la risposta che ci auguriamo dall'amministrazione di Firenze è una risposta ponderata e partecipata dell'amministrazione stessa alla gestione del verde a Firenze. A parallelamente, riconfermiamo che l'unica strada possibile in per affrontare con la dovuta serietà in cui che la problematica delle alberature urbane richiede è procedere ad un vero piano del verde concordato e discusso con tecnici, associazioni ambientaliste e comitati dei cittadini prima che con le ditte. Un altro argomento qual è? Che il Ministero dell'Ambiente ha oltretutto concesso 80 milioni di incentivi. Anche questa è un'altra falsità, è uscita perché da parte il Ministero dell'Ambiente non ha concesso un'altra, nulla di direi così, forse per allargare della, questa, questo spazio di alcune cronaca di Nardella, ma con Nardella possiamo ovviamente, come un po' tutti, è stato detto, forse ma, tutti si riferiscono agli 80 che milioni che dovevano generale, essere finanziati dalla Banca Europea degli Investimenti, meglio nota del come mutamento climatico e della, o forse si riferisce agli incentivi alle fonti rinnovabili pagati nelle bollette per elettriche dai cittadini per sostenere impianti eolici e fotovoltaici, si è, e di cui ancora beneficiano gli inceneritori, i famosi malattie degli alberi e in qualche modo anche delle, contro i quali dei, alcuni dei anni fa impugniamo e facciamo una campagna pioggia comunicativa dal titolo CIP6 direi che CIFAI, questo è un elemento che non dobbiamo certificati verdi verdi che concederebbero incentivi a uno spaccato e un po' impianti fotovoltaici ed elettrici che invece noi vengono incassati da decenni. Futurologi c'è un altro argomento, c'è poi un privato, ossia il gruppo Era, che ha fatto grossi investimenti. Chi restituisce tutti questi soldi? Li mettiamo a carico dei cittadini? Questo è un argomento in parte di analisi e di rilevazione dati, consueta logica di privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite, i costi vengono posti a carico dei cittadini, sempre e comunque. Ci mettono in allarme, forse sono già stati sostenuti con il pagamento della tassa degli anni passati. Abbiamo chiesto già a dicembre del 2017 a tutti i comuni del lato Toscana Centro, compreso Firenze, di farci vedere lo scontrino tra virgolette dei costi sostenuti da Aero, ma ancora non c'è stato mostrato nulla. Quindi, diciamo, quando molti dicono che futurologi, era già investito, per ora non hanno mai scienziati detto ci quanto mettono appunto in guardia dal eventualmente fatto che l'instabilità climatica sarà, d'altronde, il comune di molta Firenze, probabilità, il sindaco una delle caratteristiche per tramite delle della nostre partecipata società nei quadri foglio decenni. Del lato Toscana e Centro, quel poco presieduta che possiamo vedere dall'assessore intorno Bettini, a noi dalle aveva già bombe convenuto di mettere a carico dei cittadini eventuali perdite future dell'incenerimento. Con la firma della convenzione ATO, quadri con nessuna regolarità proprio dell'ottobre 2016, si rassicuravano proprio gli investitori stabilendo lo scoppio di far di caldo pagare ai cittadini di, la possibile riduzione di rifiuti da bruciare e la possibile eliminazione di dimostrazione all'incenerimento. Improvviso sì, scoppio avete di, davvero di capito caldo, bene, per chi non se lo ricordasse più perché si sta parlando di una cosa che ormai affonda mia, in ben 2 anni fa, cioè l'ottobre 2016, con questa convenzione tra lato così un punto di tra l'altro di riflessione su quello che si stabiliva che se in futuro ci sarebbero stati meno rifiuti da bruciare, l'EMA nei primi si fosse ridotta per ragioni di necessità la capacità di combustibile e quindi sono di generazione elettrica anche da un punto di vista mediatico noi vediamo dei flash, fossero venuti meno incentivi pubblici all'incenerimento, per certi aspetti se vogliamo in questa convenzione si stabiliva nero su bianco scrivendolo e firmandolo delle caratteristiche odierne del sistema di cittadini amministrati che mainstream, sarebbe per stato attraverso le bollette e si sprecano le immagini, profitti sarebbero anche quelle fatte dai cittadini, quindi immagini di smartphone, in conclusione, di telefonini diciamo che fanno che vedere l'acqua dentro ci sembrano la essere solo gli interessi della società nella macchina, fare grande opera inceneritore, prigioniero di una politica d'acqua, degli amministratori, diciamo, il fiume che esonda, comunicare, di cominciare in corrispondenza dei momenti diciamo tragici a giocare la partita dalla parte dei sovraesposizione mediatica già e poi subito dopo si spengono i riflettori su situazioni che invece andiamo lasciano a chiudere anche la puntata danni dicendo solo che questa con molta probabilità restano poi arrivata come sono. Improvvisamente infatti non è un è caso di se giovedì, diciamo 24 futurologi di maggio è arrivata quelli che prendono intorno seriamente è stata in considerazione uscita pubblicamente intorno alle 12 legato della mattina e orario in cui stavamo per l'appunto CO2, smontando cioè e finendo e terminando insomma, un altre, presidio alla Corte dei Conti che avevamo programmato già da tempo perché dei mesi addietro abbiamo depositato un esposto che chiedeva alla Corte dei Conti di indagare sul danno erariale, cioè fatto dei cassi dello stesso Stato ad opera dei politici e dei dirigenti delle aziende, per esempio una delle principali allo smaltimento dei rifiuti, perché non raggiungendo le quote minime di raccolta differenziata privata, stabilite dalla legislazione e gran dalle normative europee che costringono i cittadini, le combustioni che sono tra le principali responsabili dei propri comuni della produzione a pagare di continuamente le sanzioni. Non si parla di noccioline perché si sta parlando serra, di 58 milioni di euro di sanzioni seguite appunto al non raggiungimento della raccolta in modo molto serio. Quindi siamo tentare di dargli il con giusto questo spazio e speriamo di aver dato degli argomenti concreti e quello a tutti che accade voi che ci ascoltate è un ci po' seguite per sostenere eventuali non ci vuole molto a dirlo, dal bar all'autobus, dal luogo Bettini, di lavoro al giardinetto appunto, con coloro taglio, che magari alberi, per ingenuità, per ignoranza o anche per malafede appunto, ma se questi ci accuseranno di essere secolari, la rovina del paese perché per abbiamo fermato una grande opera. Questo invece a nostro avviso d'accordo insomma resta che gli alberi una giornata importante diciamo come tutte che le creature va a dire viventi, che la lotta può pagare poi che una si può probabilità uscire dal minoritarismo ciclo di nel quale se queste piante al quale sembra era impossibile si uscire, dice che in realtà e invece non erano piante classificate come piante pericolose, a radici non erano state già tolte dal comune, territoriale, ma se riescono a raggiungere però cadono, soglia cadono perché, cadono perché come è stato il caso di questa ci sono stati livelli di precipitazione che hanno possibilità di strappare dei risultati molli, possibilità e nello stesso tempo piante grandi con grosse chiome nelle stagioni in cui le chiome siamo in grado di raggiungere questi risultati sono ampie speriamo e che però storicamente che questa vittoria in corrispondenza delle stagioni in cui le chiome sono al massimo l'entusiasmo in realtà le piogge guadagnare sono così forti e conseguirne si sono associati degli elementi che storicamente territori erano il nostro futuro cioè, anche c'è in la stagione delle forti piogge dei terreni molli quando di stabilità lavorativa le chiome sicurezza molto, di reddito molto e di aspettativa di vita dipende molto di più da quanto saremo in grado e capaci in maniera diversa che questa associazione di buone idee o dalle precipitazioni fulgoranti molto forti, intuizioni venti, di qualche politico molto, di qualche molto forti, nuovo con, o vecchio Napoleone in stagione, con questo un grande saluto da Radio Wombat e sempre e comunque altro non inceneritori sì bastano civiltà ciao cose. Alla prossima non settimana sto qui diciamo agitando una distopia fantascientifica in cui sta succedendo cose che non sono mai successe, è chiaro che la bomba d'acqua, è chiaro che la tempesta di vento, è chiaro che il livello di precipitazioni c'è stato, ha avuto picchi e momenti di calo in molti anni, ma guardando le cose nel lungo periodo studi e l'incrocio dei dati ci portano a dire e a dover prendere con molta serietà la questione del cambiamento climatico e dell'instabilità climatica. Lascio diciamo su questo argomento dando uno spunto di un libro che ho letto dal quale ricavo questa diciamo questa attenzione che ho cercato di porre anche agli amici e alle amiche ascoltatori e ascoltatrici che è un libro uscito nel 2012 da Jorgen Randers l'ultimo diciamo rimasto del gruppo cosiddetto Club di Roma, quello che già nel 72, intorno alla figura di Aurelio Peccei, aveva cominciato a dare il via a tutta una serie di sviluppi sia sul picco del petrolio che sui possibili scenari di sviluppo dell'umanità legati proprio in principale analisi e istanza al effetto serra e in qualche modo all'inquinamento. Questo gruppo che aveva appunto dato vita al Club di Roma e poi dato alle stampe il rapporto sui limiti dello sviluppo nel 72 è stato poi decimato dal tempo e è rimasto però questo studioso di origine norvegese Jorgen Randers che nel 2012 ha dato alle stampe un libro che è stato tradotto in Italia per le edizioni Ambiente che si chiama 2052 scenari globali per i prossimi 40 anni. In questo libro insieme a moltissimi altri scienziati, uomini politici, futurologi, intendendo sempre con questo non sciamani o altre figure in qualche modo mistiche, ma gente che cerca di fare delle previsioni fondandosi su un'analisi critica del presente, guardando in esso le linee di tendenziale sviluppo, pongono appunto questa questione in modo molto serio. Fino ad arrivare al punto di dire che le nostre società con molta probabilità vedranno una caduta anche molto significativa del livello di consumi proprio perché grossa parte delle risorse delle nostre società e quindi quelle provenienti dalla fiscalità generale attraverso la tassazione dovranno essere impiegate da una parte per tecnologie e ingegneria di adattamento al mutamento climatico e dall'altra per riparare ai danni che invece non sarà possibile prevenire. Quindi, insomma, in buona sostanza, le domande sono anche le più semplici e le più complesse, se vogliamo. Si abbattono gli alberi secolari perché non sono più idonei a stare nelle città nelle quali dobbiamo riversare quantità sempre più grandi di turisti e city users, le cui vite e la cui sicurezza, salute e integrità fisica viene potenzialmente messa a rischio dalla caduta di questi alberi. Però questi alberi sono quelli che sul medio e lungo periodo costituiscono delle barriere, come ha detto giustamente il complesso dei comitati, contro l'inquinamento. Ed è l'inquinamento che è responsabile di questi accadimenti. Quindi c'è un effetto spirale